Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio non è semplicemente una web radio. Il nostro progetto nasce come realtà di aggregazione di tantissimi programmi nati in podcast. Il podcast è e resterà sempre il nostro core fondamentale. Cerca Runtime Radio su Spreaker.com e troverai tutti i nostri programmi. Runtime Radio, quelli che sono arrivati per primi. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Belli di casa, benvenuti qui su runtimeradio.it, su Quando eravamo futuro, il nostro programma bellissimo, spazio temporalmente dislocato, di società e cultura degli anni 70 e 80, dove vi raccontiamo quello che abbiamo vissuto noi, come l'abbiamo vissuto, che differenze ci sono, insomma, con il mondo attuale, quello circostante attuale, insomma, della quotidianità, insomma, della contemporaneità, non mi viene il termine. E io sono Simone Pizzi e come c'è ovviamente Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, bellissima puntata stasera. Bellissima, neanche era prevista, poi questa è la cosa forse più bella di questa, esatto, di questa puntata. E intanto salutiamo Giulio Pavan che su Facebook mi ha scritto: forse dopo tantissimi anni di podcast questa sera vi ascolto in diretta, quindi evidentemente sì, sta mantenendo la sua promessa, perché è entrato nella chat dirette runtime su Telegram, quindi cercate su Telegram dirette runtime e potete interagire sempre con noi, una chat attiva praticamente 24/24, perché la gente non dorme. Davide Gatti, buonasera a tutti e eccomi qua anch'io stasera, argomento caldo e cuboso, così. Cuboso, interessante. Comunque dirette Runtime Radio, se la cercate su. Ah, ecco, hai ragione. Per dare le coordinate. Giusto. Che detto così è un po', assomiglia un po' a No, penso che sia solo dirette Runtime, però, sai? No, dirette Runtime Radio, te lo confermo. Sto controllando, hai ragione tu. Quindi io scrivo sempre male. No, scrivo giusto. Dirette Runtime Radio. Ok, va bene. L'importante è questo. Radio. Allora, salutiamo anche Andrew che ci viene. Saluto, vi sento in diretta dopo un secolo. Quindi, quindi sei. Ok, quello che abbiamo detto prima, insomma. No, vabbè, non lo so. Comunque non fa niente. Ragazzi, apriamo prima con una notizia un po' tristina, devo dire la verità. Mentre che le veline passano fogli, sento cose. Scrivete, fate quello che i carpentieri, non c'è mica problema. Non siamo mica in diretta su Antemedia. Comunque volevo aprire con una piccola notiziona, perché ho appena letto su Facebook, tra l'altro mandando anche il messaggio, insomma, di solidarietà da parte mia e di archeologia informatica tutta, ovviamente, perché Andrea Dressen ha appena comunicato che dopo 14 anni di attività l'archivio videoludico di Bologna chiude, e questo è veramente una di quelle cose un po' tristi perché sì, insomma, l'impegno che loro hanno messo anche in un contesto, diciamo, istituzionale, quindi gli dava anche un valore elevato, diciamo, a questo tipo di progetto. Ora non sappiamo bene. Simone, prego. Non ti ho sentito, è andato via l'audio per un po'. Adesso mi senti? Sì, sì, mi okay. sento. No, volevo dire non che non so se in diretta possono confermare, magari è un problema mio. Ok, va bene, ma ditemelo se mi state sentendo, se non mi sentite, qualsiasi cosa succeda, comunque basta che me lo comunicate, interveniamo immediatamente, però potrebbe anche essere stato Skype probabilmente. Comunque dicevo, ecco, dopo tantissimo tempo l'archivio chiude, ora non sappiamo i motivi, non sappiamo i perché, per come. E poi magari chiederemo insomma ad Andrea successivamente, però ecco, ci tenevo insomma ad aprire con un saluto a questo progetto grandioso. E se volete sapere che cos'è l'archivio videoludico di Bologna, ovviamente basta andare sul nostro canale Archeologia Informatica su YouTube e trovate l'intervista che facemmo illo tempore ad Andrea Dresseno, quindi insomma è una cosa insomma che trovate sempre, rimarrà comunque scolpita, diciamo così. Giusto, vuoi dire, vuoi aggiungere qualcosa, Carlo? No, no, hai detto già tutto. Se andate, guardate, io vabbè, ho avuto la fortuna di visitarlo diverse volte, sia i suoi inizi che poi altre volte. È veramente un peccato, anche perché era un centro comunque di ritrovo anche culturale, dove si facevano parecchie ritrovi e convention e si discuteva anche della storia del videogioco in maniera magari più seria. Quindi purtroppo in Italia lo sappiamo, lo so bene perché mi occupo di associazionismo e di comunque eventi da tanti anni, e fare cultura in Italia è una delle cose più complicate che esistano nell'universo, e bisogna spesso adattarsi e cercare strategie e modi per riuscire a fare le cose, perché lo supporto comunque che ricevi dalle istituzioni è relativo, insomma, no, più che relativo è difficile, ecco, mettiamola così, perché ci sarebbe anche, però in Italia la burocrazia è qualcosa che spesso va al di là delle possibilità delle persone che vorrebbero fare. Ecco, poi secondo me c'è anche una questione politica e di percezione, no? Cioè nel senso che magari l'amministrazione pubblica, magari di quel comune, ti dà il suo beneficio, ti dà magari anche dei finanziamenti o ti dà, che ne so, una location, e poi magari dall'altra parte l'opposizione che dice, io faccio questo così concettualmente, vale da una parte e dall'altra, sì, che magari dice, ma cosa spendiamo i soldi per le cose così che non sono importanti, esatto. Perché chiaramente, esatto, quindi non sei tanto lontano dalla realtà. No, no, ma immagino. Immagino. Purtroppo è così. Bene, comunque dicono l'audio tutto bene. Si saluta anche Andrea S. Iniziamo, ragazzi, con questa puntata, che è una puntata che si intitola Non solo videogiochi, perché l'intenzione è quella di non parlare strettamente di videogiochi, ma poi ovviamente in qualche maniera di sghiscio e di sbengo, insomma, ne parleremo, ma di raccontare quelle che sono state, insomma, secondo anche la nostra esperienza, e magari non soltanto, perché magari Carlo aggiungerà anche qualche elemento storico, quelle che sono state appunto le sale giochi, cioè gli ambienti dove noi abbiamo scoperto un certo tipo di mondo. Cercheremo appunto di raccontare quelle che sono un po' le nostre esperienze, l'ambiente della sala giochi, come sono cresciute, come sono evolute, e soprattutto dove noi abbiamo avuto i nostri primi impatti e che cosa succedeva anche nelle sale giochi, perché chiaramente c'è anche il bene e il male, e tutte quelle sale giochi anche ibride, diciamo così. Ecco, io la prima domanda che vi faccio, ragazzi, è ovviamente legata alla sala giochi, però più che altro anche legata a quello che è dentro la sala giochi, no? Perché comunque il nostro rapporto con la sala giochi è inevitabilmente legata ai videogiochi. Quindi qual è il primo arcade che avete visto, e soprattutto che, insomma, che effetto va fatto la prima volta che avete visto un arcade? Dove eravate? E se questa primo impatto con l'arcade è comunque legato al mondo delle sale giochi, perché poi non è così necessariamente detto. Iniziamo da De Carlo. Beh, ho avuto già modo di raccontarlo questo episodio, però mi piace, cioè poi inerente a questo fatto, perché è un po' un avvenimento che ha segnato, se vogliamo, poi la mia vita, perché è quello che diciamo ha innestato il seme di quella che poi è diventata la passione, per quella che è stato poi sia la passione che il lavoro anche per gran parte della mia vita e per l'informatica in generale. E ho potuto ricostruire l'anno, non perché mi ricordassi esattamente l'anno, ma perché con il ricordo di questo evento che avevo in testa poi negli anni successivi sono riuscito a costruire l'anno andando a trovare l'anno di uscita di quelle macchine, pensando al periodo e quali videogiochi c'erano e quali videogiochi non c'erano. Comunque in pratica è d'estate, ovviamente, perché d'estate si andava in località turistiche e io, come quasi tutti i milanesi, andavamo sulla Riviera Ligure, perché in quegli anni, negli anni 70, un po' il mare dei milanesi era la Riviera Ligure, varie località della Riviera Ligure. E i miei genitori soprattutto avevano anche i miei nonni, in realtà, che poi dopo usavano anche i miei genitori, usavano noi, una casa al mare. E si trovava questa casa a Borgio Verezzi. Borgio Verezzi è un piccolo paesino che sta sulla Riviera Ligure, che è in mezzo a due paesi più grossi che sono Finale Ligure e Pietra Ligure. A Borgio Verezzi in quegli anni, sto parlando del 1977, io avevo 7 anni, non c'erano le sale giochi. Forse sarebbe arrivato qualcosa dopo, perché Borgio Verezzi era un paesino, è un paese piccolo, però vicino a Finale Ligure e Pietra Ligure si andava, perché la sera, per divertirsi, ci si arrivava volendo anche a piedi o comunque con l'autobus o con pochi minuti di macchina, si andava o a Pietra o a Finale. E io mi ricordo che eravamo a Finale Ligure, questo me lo ricordo, sul lungomare di Finale Ligure, e a un certo punto c'è questo, diciamo, ambiente con scritto fuori sala giochi. E nella mia mente era la prima volta che io entravo in un ambiente di questo tipo nella mia vita. Ero piccolo, 7 anni, quindi ero prima elementare, per intenderci, appena finita la prima elementare, e i miei genitori mi concedono di entrare in questa sala giochi, ambiente dove prima io non ero mai potuto entrare, perché accompagnato da amici più grandi. Mi ricordo che c'era Marco Mietta, che aveva 5 anni più di me. Non so, vabbè, questo apro la parentesi, Marco Mietta è quello che ha inventato Primo Giovedini, il fumetto che usciva su Commodore Computer Club della Systems qualche anno dopo. Comunque Marco Mietta aveva 5 anni più di me, quindi è del 65, io ero del 70, quindi era già un ragazzino, no? E quindi sotto, diciamo, l'egidia di Marco Mietta mi fanno entrare in questa sala giochi. E lì mi si apre un mondo, veramente, perché io entro in questo posto e vedo era un corridoio lungo, era una sala giochi che poi alla fine, pensandoci adesso, era molto piccola, però per me sembrava già una roba immensa, ed era un corridoio lungo con tutti questi cabinati appoggiati alle pareti, monitor tutti in bianco e nero, e inizio il primo, entro subito dopo la cassa, appena cambiato i gettoni, c'è questo grosso videogioco con un periscopio, a forma di periscopio dei sottomarini. Il gioco era, se non ricordo male il titolo, era Submarine della Sega, però non mi ricordo se si chiamava anche Deep qualcosa, perché ha avuto diversi nomi questo gioco, quindi dovrei andare a vedere. Però era il videogioco classico dove avevi il sottomarino, i sottomarini che si muovevano, tu sopra spostavi la nave e lanciava le bombe di profondità, praticamente dovevi beccare i sottomarini, le cose, e facevi, era un monitor in bianco e nero, ma tu non vedevi direttamente il monitor, ma il monitor lo guardavi attraverso il periscopio, cioè dovevi mettere la testa sul periscopio. E mi ricordo che per giocarci io ero in piedi su una sedia, perché sennò non arrivavo al periscopio per giocare. E questo gioco era pazzesco, cioè per me tutto quell'ambiente era incredibile, perché era la prima volta che vedevo dei giochi così. Pensate, la prima volta nella vita che vedete un videogioco, no? Non si sapeva neanche, non potevo neanche chiamarli videogiochi, per me erano giochi. Poi c'erano ovviamente tanti flipper che ne avevo già visti nei bar, eccetera, però quei videogiochi lì non c'erano, non erano ancora così diffusi, era la prima volta che li vedevo. Mi ricordo poi, sempre in quella sala giochi, c'era il videogioco di Gun, come si chiama? Quello dei due pistoleri che praticamente si sparano in mezzo, con la carrozza in mezzo. Esatto. Ce la vuole per Atari poi, no? Sì, Atari si chiamava Outlaw, la versione per Atari, però quello da arcade aveva un altro nome che adesso mi sfugge, purtroppo. E sì, Western Gun, forse, se non mi ricordo male. Comunque, vabbè, comunque il gioco è originario, fatto, era un gioco giapponese, della Namco, della Taito, non mi ricordo, che però era nella versione Williams rifatta, perché era quello americano, e si sparavano i due pistoleri, e bellissimo anche quello, fantastico. Mi ricordo anche lì monitor in bianco e nero con sopra la pellicola gialla per fare il colore giallo simulato. Del West. Esatto, come simulato del West, la color correction. Esatto, vabbè, quello, poi ce n'erano ancora altri, mi ricordo forse c'era Circus, vabbè, c'erano diversi giochi, diversi arcade di quel periodo, quindi stiamo parlando del periodo dove Space Invader non era ancora uscito, sarebbe arrivato un paio di anni dopo. Ah, ecco, c'era Night Driver dell'Atari, bellissimo. Ah sì, giusto. No, forse era indie, no aspetta, non c'era Night Driver. Vabbè, ma arrivato. Adesso non è che dobbiamo essere proprio così. Vabbè, comunque... io lì mi innamorai. Okay. Considerate che da quell'anno lì per me i videogiochi diventarono il mio divertimento preferito in assoluto, e soprattutto poi passai gli anni seguenti della mia vita, tutte le volte che andavo al mare io mi dovevo girare tutti gli stabilimenti, tutte le sale giochi, tutti i posti dove c'erano degli arcade per vedere quelli che erano usciti nuovi, cos'era uscito di nuovo. Sì, ma allora, questo poi ne parliamo dopo. È quello che poi abbiamo fatto un po' tutti, questa roba qua, direi. Un po' tutti nerd, diciamo. Esatto, sì. Altri vabbè, facevano altre tutti cose, quelli erano diciamo un po' che... appassionati. Davide? Esatto. E allora, io prima avevo fatto una riflessione e mi ricordavo una cosa, poi invece Carlo mi ha scavato nella memoria e mi ha fatto ricordare che fondamentalmente abbiamo vissuto una cosa abbastanza simile, e quindi i miei primi incontri con i videogiochi, che però non li ho vissuti con la sua emozione, li ho vissuti un po' più con indifferenza, perché in realtà li ho visti anch'io al mare, in questo caso io ero nella Riviera Adriatica, e ho visto anch'io quel tipo di giochi, diciamo, in sala giochi, però io ero trascinato dai miei fratelli più grandi e quindi io ero con loro e loro giocavano a quei giochi, io li guardavo ma non potevo giocare, e li guardavo, carini, simpatici, mentre invece il mio ricordo più grosso ce l'ho avuto con Space Invader, invece, che mi ha ricordato Carlo, che è stato, appunto, l'ha ricordato anche prima, è uscito dopo, e invece di quello ho avuto lo scattolo, come si dice, la scintilla è scattata con quello, la scimmia, la fulgurazione è scattato con quello e non con quelli là, che erano sì carini. Io forse, sai che mi viene in mente dove li ho visti invece? Forse non li ho visti al mare, ma alle Varesine. Ho idea che li ho visti alle Varesine. Luna Park di Milano. Che era Luna Park di Milano, abbastanza antico. Sì. E comunque sia, in realtà il mio l'amore è scattato con Space Invader, che quando l'ho visto sono rimasto proprio a bocca aperta, ho detto cos'è sta roba micidiale, e lì è stato il mio primo incontro che potrei classificare quello vero, ecco, diciamo. Però poi vabbè, anch'io al mare, però di traverso, e ovviamente era il periodo più dei flipper, se proprio devo dirlo, mi piacevano di più i flipper che quelle robe lì, ed erano più diffusi, si trovavano dappertutto quelli. Bene, invece tu invece no. Io guarda, devo dire la verità, che mi è praticamente impossibile ricostruire questa cosa, quindi diciamo scivolo con la mia memoria, perché eravamo in pieni anni 70, perché io ero veramente bambino, quindi non ti so dire dove era allocata questa sala giochi. Ma era a Roma sicuramente, perché ci andai con mio padre, ovviamente tutta la famiglia, era una cosa nuova tra virgolette, quindi insomma un po' la curiosità, e mi ricordo questo spazio che era immenso, chiaramente io ero piccolo quindi magari le proporzioni erano anche sbilanciate da questo, però mi ricordo che il gioco che mi aveva affascinato di più, a parte tutti i suoni, i rumori, le cose, che io ero tutto assolutamente affascinato, il gioco mi aveva affascinato di più era questo gioco che proiettava questo uccello sul muro, quindi c'è questo muro praticamente dove si proiettava questo uccello bianco, tu avevi la pistola e dovevi sparare all'uccello, e se tu colpivi l'uccello, l'uccello cadeva per terra, no? Ma quello era un elettromeccanico. Esatto, quindi... era un gioco. Non è un gioco, infatti, come hai detto tu, per me non è c'era la distinzione se quello era videogioco o non videogioco. La stessa cosa che poi più o meno abbiamo detto anche nel documentario del museo di elettroludica, certo. No? Cioè, sì, nel senso, sì. Non è che tu ci avevi in mente la definizione, che non probabilmente non esisteva neanche. Quindi in questi ambienti così grandi, magari c'era forse ancora non era neanche arrivato Space Invaders, cioè probabilmente, e quindi c'erano tutti questi giochi che, ecco, io ricordo tantissimo quello col cavalluccio, dove tu praticamente sparavi agli indiani, molto razzista poi questa cosa, da parte degli americani, facevi il cowboy e sparavi con la pistola e quelli cadevano, oppure l'orso, no? Il famoso orso, e tu gli sparavi e lo faceva, lo salzava e cambiava direzione, no? Esatto. E c'erano tantissimi di questi giochi qui, così come c'erano quei giochi che Carlo mi ha ricordato tra l'altro in prediretta, quello del tu avevi il volante, c'era un percorso, però praticamente il funzionamento del gioco, che era totalmente meccanico, cioè non c'era proprio monitor, non c'era niente, era totalmente analogico, perché c'era questa pallina che tu dovevi far muovere usando la fisica, poi fondamentalmente, quindi esatto, girando, inclinando il piano. Esatto, si inclinava il piano ed era difficilissimo. Una cosa del genere mi ha ricordato molto Marble Madness, poi dopo ai tempi dell'Amiga, insomma. Sì, il concetto di Marble Madness è esattamente preso da quei giochi lì. Non so se vi ricordate, c'era anche una tecnica che però si parla di che c'erano dei percorsi dove magari c'era il fossato e tu per saltarlo dovevi muovere di scatto il piano in modo da far fare il saltino alla pallina, sì, e saltare, sì. Era difficilissimo, ragazzi, era veramente una roba complicatissima, però divertente, dai, però giochi. Appunto questa sala giochi, quindi questo posto dove c'erano tutti questi giochi, e ci siamo poi tornati diverse volte, chiaramente era proprio a Roma, quindi non era nei posti di villeggiatura, perché per me, così come per voi, ma al contrario, la città e il posto di villeggiatura avevano due versioni diverse di quello che io conoscevo di sala giochi, perché per me la sala giochi era, poi crescendo, anche cominciando un po' a frequentarla, era nella città, non era nel posto di villeggiatura. Poi nei posti di villeggiatura c'erano, a seconda del posto dove eri, c'era il piccolo agglomerato dei videogiochi, poteva essere il bar, poteva essere la parrocchia, poteva essere qualsiasi cosa, così come invece magari nei posti tipo a Cattolica, e mi ricordo che c'era questa sala giochi gigantesca, l'ho già raccontata questa storia, che praticamente c'era mia zia che lavorava a Cattolica in un albergo, e la padrona di questo albergo riteneva mia zia talmente, cioè doveva talmente rimanere concentrata nel lavoro che faceva, che non mi permetteva di vederla, e praticamente quando mi vedeva mi dava sti 50.000 lire. Ma io te parlo, ragazzi, se parlo degli anni 80, sarà stato 50.000 lire negli anni 80, era tantissimo. 80, no? Esatto, 80, 81, 82, perché già c'era Space Invaders, era il regalo di Natale. Esatto, bravo. Quando è arrivato Space Invaders in Italia? 79. E quindi dai, era comunque dopo il 79, no? Perché mi ricordo che in questa 79 è arrivato, però il successo ce l'ha avuto nell'80 e poi anche nell'80. Ok, quindi vabbè, facciamo gli anni su quelli, dal 79 all'83, mettiamo così, no? Cioè, sì, più o meno, sì. Quello lì, e questa mi dava sti 50.000 lire, che io poi ovviamente non sapevo neanche come, cioè se gestivano 50.000 lire. Allora andavo dalla tizia della sala giochi, dicevo che mi ricambi, e questa diceva guarda che questi sono tantissimi soldi, non li puoi cambiare tutti quanti, no? Esatto. Allora mi faceva guarda, fai una cosa, io me li prendo questi soldi, te ne do un po' per volta, tu ogni tanto quando li finisci i soldi me li vieni a richiedere. E io praticamente facevo così, poi chissà se me l'ha dati tutti, cioè nel senso, oppure se a un certo punto mi sono stufato e me ne sono andato, perché cioè non è che gli davo il valore io a questa cosa, con, no? Con 50.000 lire in sala giochi giocavi per una settimana. Esatto, no, però io ero una pippa e quindi mettevo gettoni, perdevo. Poi devi considerare che nei posti di villeggiatura, questa è un'esperienza che ho fatto, già allora comunque in certi posti, tipo appunto Cattolica, comunque il gioco, il gettone secondo me costava di più di quanto costava nella sala giochi a Roma, cioè mi ricordo questa cosa, poi potrebbe anche non essere vero, cioè nel senso dipende dalla sala giochi e dagli anni, però no, di solito costava più o meno uguale. Poi in sala giochi era abbastanza, ti dico che io ho trovato differenze dei prezzi anche negli anni successivi, quando poi ho iniziato ad avere consapevolezza, ho trovato differenze. Non vorrei dire una stupidata, perché non me lo dici, vorrebbe Federico Croci, che è l'esperto assoluto di queste le cose, ma credo che ci fosse una regolamentazione abbastanza pesante dello Stato sul costo del gettone, e c'erano anche delle regole, perché noi in realtà in Italia il gioco d'azzardo non era legale, e i videogiochi erano una cosa, i videogiochi e i flipper, attenzione, erano una cosa che poteva a volte sfociare nel gioco d'azzardo, soprattutto se c'era una cosa che veniva chiamata la ripetizione della partita, cioè che era una ricompensa, perché era una ricompensa, e quindi questo in Italia era vietato, perché era come vincere qualcosa col gioco, e quindi anche la regolamentazione del costo del gettone, del costo dei, degli arcade, non so se vi ricordate, ma quando costavano 200 lire, costavano 200 lire dappertutto, poi hanno iniziato a costare un po' di più, ma non c'era tanta differenza. No, però magari 200 lire ce ne dovevi mettere due, cioè per dirti. Però è vero, cioè io me la ricordo questa cosa, che c'era delle differenze di prezzo a seconda dell'ambiente. Poi con gli anni abbiano liberalizzato un po', si hanno cambiate delle cose, però come ho detto non sono un espertissimo, come ho detto ci vorrebbe Federico. Qui andiamo molto molto a memoria, però ecco, mi ricordo questa cosa delle 50.000 lire, che poi ovviamente io avevo un po' capito il trucchetto, questa ogni tanto sganciava queste 50.000 lire, cioè una cosa, una follia, cioè questa spendeva dei soldi che non mi doveva niente, perché cioè non è che, però siccome io ero lì e stavo con mia zia, però lei, quando lei lavorava, la padrona non voleva che, la proprietaria dell'albergo non voleva che io interagivo con mia zia, praticamente io non potevo accedere a mia zia, e quindi i soldi mi dà lei praticamente, chissà se glieli detraeva dallo stipendio, non l'ho mai saputa sta cosa, però era particolare sta cosa, e quindi niente, c'era questo fatto che ci tenevo a ricordarlo, perché detto, il mio primo impatto con la sala giochi è Roma, una sala giochi grandissima, io me la ricordo grandissima, però poi magari era grande normale, e poi c'era questa sala giochi di De Cattolica, oppure nel posto dove andavo al mare, dato che era un consorzio privato tra virgolette, mi ricordo che c'era una stanzetta, una sorta di mini garage praticamente, dove non so in che modo, in che maniera, praticamente il consorzio ha fatto mettere questi 3-4 cabinati con un flipper e qualcosa, insomma, quindi noi quella la chiamavamo la sala giochi, ma insomma era poca roba, insomma, fondamentalmente. Comunque io ricordo che al mare, se andavi con i gettoni, se ne prendevi, che ne so, 5.000 lire o 3.000 lire, te ne regalavano uno o due, avevi una sorta di bonus. Se ne prendevi non so, 5.000 lire di gettoni, gli davi 5.000 lire, al posto di darti 50 gettoni te ne davano 55, che ne so. Non so, quindi in rapporto poteva costare un pochino meno rispetto a... Allora, qui poi dopo magari ci documentiamo su questa cosa, però per esempio pure Andrew mi chiede in chat, può essere che sulle navi della Tirrenia fossero più cari? Guarda, io ti devo dire la verità, sulle navi della Tirrenia non lo so se erano più cari, e ritorniamo al discorso che ha fatto Carlo, cioè nel senso magari ci documentiamo su questa cosa e poi magari vi rispondiamo all'inizio della prossima puntata, però sì. Sicuramente io sulle navi della Tirrenia ci ho visto il primo calcio, il videogioco dell'Atari, quello da a tavolo praticamente. Non so se ve lo ricordate, che stavi seduto uno da una parte e uno dall'altra e muovevi i personaggetti. Non so, te lo ricordi, Carlo? Non era dell'Atari. No, vabbè, non so se era dell'Atari, va bene, adesso ho detto dell'Atari. Stai parlando di dribbling della Modern Racing? Non lo so, però era vecchio, era in bianco e nero, lo sicuro. Quindi, e c'era questo gioco di calcio. Dribbling era colori, però okay. Con i personaggetti visti dall'alto erano i personaggetti. Ma sì, ma erano. Guarda, se proprio ti devo dire, ricordavano un po' più quel gioco del basket che abbiamo visto. Cioè, nel senso, erano molto stilizzati, cioè era proprio un'epoca ancora molto preistorica, diciamo così. Però vabbè, insomma, c'era questo gioco del calcio, adesso non me lo ricordo, ed era fighissimo. Vabbè, anche quello dell'Atari, che erano visti dall'alto, però erano proprio visti dall'alto, ed era in bianco e nero, è quello, io se no stilizzati un pochino, però a colori, era dribbling della Modern Racing. Allora vedi, mi ricordavo che era dell'Atari, quindi può essere che era quello dell'Atari, insomma, vedi che... quel gioco poi io non l'ho più rivisto da nessuna parte se non sulle navi, quel gioco lì, non so per quale ragione. Perché in realtà quel gioco lì, se non ricordo male, non è uno di quelli che è stato copiato dai cantinari italiani, quindi non si è diffuso poi. Perché ecco, una delle cose tipiche della nostra nazione, che ho raccontato un miliardo di volte negli altri podcast, quindi non lo ripeto, è che noi in Italia ovviamente non avevamo la famosa legge sull'autore editore del videogioco, e anche negli arcade da noi in Italia, al posto di diffondersi gli originali, noi, se ci ricordiamo i giochi che giocavamo, in realtà nessuno di noi al 99,9% ha mai giocato un Donkey Kong originale, ma abbiamo giocato a tanti N cloni di Donkey Kong. Anche perché non ce l'ha mai fregato un cazzo, diciamo. Ma noi non è che noi eravamo degli utilizzatori, quindi non è che potevamo sapere che queste però in realtà era così, e le schede che c'erano dentro non erano le schede originali vere che c'erano negli Stati Uniti o in Inghilterra eccetera, o sulle navi, perché le navi andavano in internazionali, quindi magari erano più regolamentate, se vuoi, da questo punto di vista, ma c'erano dentro delle schede clone, come sa bene anche il buon Davide, che adesso si ripara ogni tanto schede arcade nel quasi suo canale, sempre cloni, e sono nel 90%, a meno che non sono quelle che ti do io che sono originali, le altre sono tutti clonacci che si trovano in giro, diciamo. Però come diceva Simone, noi non ce ne accorgevamo, giocavamo, ma neanche ci interessava, non ci poniamo proprio il problema, cioè, la 200 lire la cacciavamo uguale, sì, esatto. Infatti il problema non era nostro, il problema è del mercato, della legge, di quello che c'era dietro, e delle conseguenze che questo poi ha portato, chiaramente, esatto. Come abbiamo parlato noi, ovviamente eravamo dei ignari utilizzatori, insomma, di questo. Allora, per far capire un attimo se c'erano delle differenze tra quello che era il mio mondo e il vostro mondo, che, come sapevamo, abbiamo raccontato tante volte, in quando eravamo futuro, erano due mondi distinti, nel senso, lontani, separati dall'interurbano, da chilometri e chilometri, diciamo così. Esatto. Per esempio, da noi, io ho vissuto la transizione tra quei luoghi ibridi dove c'erano i flipper, gli arcade, ma c'erano anche i biliardi, no? Cioè, nel senso, quei bar magari che c'avevano questa area dietro praticamente che era destinata a queste cose, dove c'era il biliardo ma c'era anche il flipper o c'era l'arcade, quindi le bischette, noi li chiamavamo circolini. E i circolini, bravo, esatto, alla sala giochi vera e propria, cioè quando poi a un certo punto la sala giochi si è consolidata, diciamo, sono spariti anche i giochi elettromeccanici e sono arrivati proprio il posto dove tu andavi a giocare agli arcade, cioè dove andavi a giocare ai videogiochi. Ecco, questa è una cosa che mi incuriosisce, perché noi, sì, il circolino, forse è il circolo, forse già è un termine che è compatibile, da noi si chiamano bische fondamentalmente, perché c'era gente, andava lì e giocava a tutto, giocavano a carte, a biliardo, ecco, insomma, seppure voi avete vissuto questo tipo di transizione, o se queste realtà ci stavano anche dalle vostre parti. Iniziamo da Carlo. Sì, scusa, io? Vai, inizia tu, poi Davide. Io devo dire la verità, no, nel senso che, però forse, forse per la mia età o quello che vuoi, nel senso che io mi ricordo al mare le sale giochi del mare e non di Milano. Uno, vabbè, io ero, in realtà abitavo in provincia, perché esatto, abitavo a Settimo Milanese, Milanese c'erano al massimo c'erano i bar, ma proprio in cui i videogiochi sono arrivati, ma che erano già colori praticamente, e non andavo a Milano, ovviamente, da piccolo. Ho iniziato ad andare a Milano verso le medie, certo, seconda, certo, terza media, quindi più avanti, perché Milano era lontana in realtà, era attaccata, ma ovviamente era lontana, prendere l'autobus, insomma, non era, e quindi non conoscevo la città, non sapevo che in città, a Milano, esistevano le sale giochi. L'ho scoperto anni dopo. Per me le sale giochi esistevano solo al mare, e al mare le sale giochi erano sale giochi, cioè entravi, c'erano i flipper, i giochi elettromeccanici e i videogiochi, punto. Non c'erano bischettine, io quelle non le ho mai viste. Ho visto qualcosa di questo tipo nelle sale biliardo, però facevo già le superiori, quindi era già qualcosa che ho visto anni dopo, ma erano le sale biliardo dove si giocava a biliardo. E sì, allora, sì, è vero, perché poi a un certo punto le sale giochi sono diventate sale giochi, e le bischette, le sale biliardo sono diventate proprio sale biliardo, anche serie, no? Nel senso, dove andavi là e prenotavi il tavolo e via dicendo. Il tavolo, eccetera, eccetera. Quindi io no, non l'ho vissuto, ma penso proprio per un motivo geografico, certo, barra di età, certo, in realtà. No, invece al contrario, ho vissuto almeno in un, sia a Cinisello che a Sesto San Giovanni c'erano due, quelli che noi chiamavamo circolini, e c'era, era quello con i vetri marroni, con il fumo, cioè quelle vetrine marroni, con tutti la gente dentro che fumava, e c'erano una volta, giusto per dire, Sesto, per dare un contesto, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo erano all'epoca 10 volte più grandi di Settimo Milanese. Settimo Milanese era proprio un paesino microscopico di 5 case, e anche adesso le proporzioni, cioè anche adesso se vai a Settimo comunque vedi una differenza rispetto a Cinisello e quelle parti che sono, praticamente adesso sono considerate Milano al 100%. Vabbè, okay, giusto, dai, per dare un contesto geografico. Vai, comunque dai. C'erano questi circolini che inizialmente erano destinati per noi ai vecchi, con dentro gente che giocava, non neanche ci andavamo, però poi hanno cominciato a dedicare una piccola area con un cabinato, poi due, poi tre, poi quattro, poi sicuramente probabilmente in quel periodo davano più monetizzazione rispetto ai biliardi o al gioco di carte, e i cabinati hanno preso spazio, quindi i biliardi hanno cominciato ad andarsene via, ed era diventato praticamente delle sale giochi, e con tanti arcade dentro, cioè magari una ventina, una trentina, mettendoli in tutti i buchi possibili, perché in quel periodo facevano fare tanti soldi, e quindi anche il negoziante ha detto: biliardo ci guadagno 10 euro, ci guadagno 10.000 lire al giorno, sti cabinati qua mi portano, non ho idea di quanto potevano far guadagnare, ma credo tanto. Chissà quanto guadagnava. Beh, senza considerare anche il fatto che non so quanto potesse costare un cabinato, ma di certo un biliardo non costava poco, insomma. No, e poi, come ho detto già anche nel documentario, la novità che introdussero i videogiochi arcade era il costo di manutenzione. Cioè prima, quando tu avevi una sala giochi, avevi gli elettromeccanici, i flipper eccetera, c'erano dei costi di manutenzione altissimi, perché erano macchine complesse, quindi con necessità di manutenzione, di tecnica eccetera. I videogiochi alla fine, gli arcade, erano un monitor e una scheda dentro un coso di legno col joystick, cioè la manutenzione era ridottissima rispetto agli altri, quindi certo, anche i costi di manutenzione erano molto molto più bassi, e anche poi il costo della macchina di per sé stesso, cioè in realtà un videogioco costava molto meno di un elettromeccanico complicato dell'epoca, e quindi i margini per i gestori delle sale giochi sono alzati considerevolmente, ecco, a parità di introito di monetine, mettiamola, sì, così. Che ricordiamo che i negozi, le sale giochi o comunque anche i circolini, chiunque, non è che lo compravano il cabinato, cioè no, lo affittavano, sì, o neanche, glielo portavano lì e poi dividevano, sì, il guadagno, qualcosa del genere. Esatto, sì, sì, incomodato, e si tratteneva una parte degli incassi, e infatti anche i noleggiatori diventavano poi i famosi cantinari che copiavano le schede, perché è ovvio che un conto è se la scheda la dovevano comprare e quindi aveva un costo, se la scheda se la producevano loro, se la copiavano e se ne clonavano con una frazione del costo, decine e decine, quindi anche lì ne sono girati tanti di soldi in quegli anni. Immagino di sì. Beh, considera, io conoscevo una famiglia che facevano noleggio e riparazione. Intanto salutiamo Gianluca Sansò. E, sì, buonasera Gianluca, ti ho visto. E allora io invece mi soffermerei anche qui per cercare di capire un po' le differenze, perché da noi in particolare c'era praticamente la sala giochi dove andavo sempre, adesso non mi ricordo come si chiama, stamattina me lo ricordavo, cioè una cosa incredibile, comunque la memoria è un po' strana, e, però nelle sale giochi, quando insomma hanno cominciato a consolidarsi, diciamo negli anni 80, a un certo punto sono arrivati i cabinati e cominciano ad arrivare anche le cose fighe, i giochi diventavano sempre più belli sia da vedere che da giocare, insomma, diciamo così, e c'era tutta una serie di, c'era una fauna insomma particolare all'interno delle sale giochi che partivano da Alfonsi della situazione, cioè quello che pensava di essere il figo del bigonzo, a quello che era il liber professionista che levate proprio, che quando arrivava lui te dovevi levare dal cabinato perché ci doveva giocare lui e ci giocava per ore praticamente senza che nessuno ci potesse giocare, e si facevano i capannelli dietro, no? E una cosa, esatto, una cosa che ho sempre forse molti di voi non si renderanno conto, i più giovani, è il fatto che nei cabinati, in tanti cabinati, ai lati dove c'era il joystick c'era una sorta di nicchietta di ferro che era il posacenere dove si poggiavano le cicche, certo, fondamentalmente le sigarette, perché si fumava riccamente, si fumava, ma tanto anche. E questa cosa poi troppo si lega anche al fatto che, diciamo, in alcune sale giochi, in alcuni quartieri, magari non erano proprio il top delle frequentazioni, e magari le nostre madri non erano proprio contente del fatto che noi andavamo in certi determinati posti. Però ecco, diciamo, cerchiamo di individuare quelli anche che erano i soggetti, no? Cioè, adesso io ho fatto una panoramica veloce, no? Però insomma c'erano sti soggetti che penso che più o meno c'erano un po' dappertutto, no? C'era quello che faceva il figo col flipper, però poi alla fine era un po' un coglioncello, e c'era quello super professionista che ti dico, levate, conosceva a memoria tutti quanti, che però veniva considerato veramente il più figo di tutti, cioè era il più figo, non era il nerd occhialuto, era proprio il figo, cioè era il figo che era figo a fa tutto, e quindi era figo pure a fare i giochi, e quindi tutti lo odiavano fondamentalmente, però nessuno se lo osava magari mettersi contro. Iniziamo da Carlo. Beh sì, allora c'è da dire che le sale giochi erano in realtà delle mini realtà sociali, cioè quindi erano diventate a un certo punto, qui stiamo parlando ovviamente non dell'inizio di quello che abbiamo parlato prima, ma degli anni 80 inoltrati, quando il videogioco era diventato veramente un fenomeno di massa, quindi stiamo parlando proprio delle sale giochi nel loro momento di massimo, sì, splendore, sì, esatto, sì. Erano diventati un po' i circoli di ritrovo dei ragazzi, cioè i ragazzi si andavano in sala giochi, ok? A quel punto infatti stiamo già negli anni 80 inoltrati, io finivo le medie, iniziavo le superiori, quindi 83, 84, 85, quegli anni lì, 86, infatti poi conosco le sale giochi a Milano, quindi in città, no? E quindi si marinava la scuola, si andava in sala giochi, lo dico a bassa voce, cioè si saltava la scuola, Che a bassa voce, si pigiava, come si diceva a Milano. Tanto scusa Carlo, ti interrompo, salutiamo Mario Broz che è entrato in chat e ci dice: siete grandi, ho uno ZX80, il mio primo computer del 1981, come lo pulisco per evitare di non rovinare la tastiera? Cioè oramai siamo diventati dei consulenti. Va benissimo Carlo, come lo pulisce? Rispondiamo così subito, devo dirglielo, no? Vabbè, ma sì, dai, no, può pulire anche col CIF tranquillo, proprio la parte sopra non ha problemi, diciamo che la membrana dello ZX80 soffre di vecchiaia, quindi può essere che si è già rovinato, vada cambiata perché si secca la plastica proprio con cui è fatta, però i pezzi di ricambio li fanno ancora e li vendono, li trovi su eBay eccetera. Però se invece è solo sporca, funziona, è solo sporca, vuoi pulire, va benissimo anche il CIF perché è plastica, quindi si pulisce tranquillamente. Okay, senza, okay. Dai, torniamo adesso che abbiamo fatto questo momento di posta dell'amore. Devi mettere la musica è The Quark, è vero, non ero preparato a una cosa del genere, hai ragione. Vabbè, comunque ritornando al discorso delle sale giochi, quindi scopro che ci sono queste sale ed era un microcosmo, no? E ci sono ovviamente tutte le interazioni che ci sono nell'interazione sociale, quindi era un luogo sociale, giravano, il fumo, perché all'epoca ricordiamo che negli anni 70-80 il fumo era, cioè fumavano tutti, fumavano in televisione, questo l'abbiamo già detto anche in altre puntate, non è che c'era la demonizzazione del fumo, della sigaretta, quindi tu entravi in sala giochi, io non fumavo, ma chissà quante sigarette mi sono fumato di riflesso. Poi magari andavi al cinema, poi al ristorante, in tutti questi posti fumavi, continuavi a fumare sempre. Sì, sì, vabbè, questo infatti l'abbiamo raccontato tutte le puntate, compresa quella volta che vi ho portato al cinema, insomma. C'erano i posacenere di fianco ai cosi, e poi ovviamente l'interazione sociale costa col fatto che appunto c'era interazione tra i ragazzi, che se vogliamo è la stessa che c'è adesso nei social, e anche in alcuni ambienti. Io infatti avevo fatto un parallelismo tempo fa e l'ho ricordato anche oggi quando abbiamo preparato la puntata, che non mi ricordavo il termine, quando si formava all'epoca il capannello dietro a quelli che giocavano, che erano bravi a giocare a un determinato gioco, è praticamente i let's play o i gameplay che ci sono adesso su YouTube. Infatti molti adesso, ho fatto una ricerca oggi divertente cercando questo fenomeno della gente che guarda gli altri giocare su YouTube. Non erano tanto lontani. Quando si andava in sala giochi, se c'era uno bravo, tu ti mettevi dietro e lo guardavi giocare, sia perché era un piacere comunque vedere uno che sapeva giocare, sia perché magari imparavi come andare avanti nei livelli, eccetera. Quindi comunque concettualmente sono le stesse motivazioni che muovono i ragazzi di oggi a guardare i gameplay e let's play su YouTube, ma era la stessa cosa, solo che noi lo facevamo dal vivo, perché ovviamente lì era tutto più locale, più piccolo, non c'era la distribuzione della rete, e le dinamiche in sala giochi erano le stesse che ci sono nei social, quello figo, quello bravo. E un'altra cosa che ho citato oggi nel documento sono i famosi, la nascita dei cosiddetti bimbi minchia, cioè quando diventavi un po' più grandicello, un po' più bravo a giocare in sala giochi, quando ti si avvicinava il bambinetto piccolo con le dita appiccicose di fianco, all'epoca, all'inizio li chiamavamo i gufi, negli anni, proprio all'inizio degli anni 80, i gufi, perché dicevamo portano sfiga, cioè tu stavi giocando la partita fighissima della tua vita a scramble, eri arrivato avantissimo, arrivava il ragazzino cicciottello di fianco piccolino, si metteva a guardare dietro e perdevi. Vai a destra, vai a sinistra, ammazza quello, guarda quello, io lo so come si fa, fai così, e tu ovviamente, ma perché ti distraeva, tu eri concentrato, anche se devo dire che al figaccione super campione c'era sempre il capannello dietro, no? Che come diceva Carlo prima, no? Il let's play era stato, cioè tu lo vedi, ma appunto era il capannello ossequioso, cioè quello che guardava anche se sì, però un po' decomitate, fammi vedere, tu sei troppo alto, fammi vedere a me, capito? Cioè che c'era un po' di infatti tutto. Arriviamo fino ai videogiochi tipo Dragon Slayer, quando esatto, era un grandissimo Dragon successo Slayer, che misero il secondo monitor in cima al cabinato, esatto, la grande troppo la partita agli altri giocatori in sala giochi. Ma quello era anche uno specchietto per l'odole, perché tu vedevi questa cosa che era totalmente diversa da tutto ciò che avevi visto fino a quel momento con i cubettoni, esatto. E vedevi questo cartone animato, però c'era anche veramente Dragon Slayer, uno di quei giochi che io ho guardato tanto perché non riuscivo mai a fare un tubo con una cosa. Invece c'erano certi che sapevano le memorie, io quello tutto. Mi ricordo, io ecco, all'epoca frequentavo anche Pavia per questioni di amicizia e poi di vicinanza, che il settimo milanese andai a comprare pellicce, di la verità. No, a Pavia, sì, beh, mia mamma si portava, non le comprava, ma le portava, sai che d'inverno le porti là per farle. Noi frigoriferi milanesi. Noi portava Annabella di Pavia. E c'era la Jolly Blue, la famosa sala giochi di Pavia, quella che è citata anche nella canzone degli 883. La canzone 883. E lì c'era un mio amico che Andrea Perotti, lo cito questo qui perché è un mio amicissimo dell'epoca di Vigevano, lui era il figo da sala giochi, sempre occhi azzurri, alto, muscoloso, e lui sapeva giocare da Dio, e lui giocava a Dragon Slayer, come anche Marco Marabelli, un altro che conosco, che però ho conosciuto dopo. Marco Marabelli poi è incredibile, Marco Marabelli sa giocare a Dragon Slayer a occhi chiusi, girato al contrario senza guardare il monitor, gira la linea e te lo finisce tutto, cioè tutto per dirti i livelli, perché lì è una questione di memoria muscolare, memoria, cioè, sì, anche dell'audio, si ricorda con l'audio le mosse che deve fare nel momento giusto, eccetera. Comunque loro andavano avantissimo a Dragon Slayer e a tutti dietro a guardarli, perché sì, perché non c'era mai l'occasione di vedere tutto il cartone animato, diciamo, tu vedevi sempre i primi 5 minuti e basta, e il resto buoni. Non sapevi mai. Ti ricordiamo che poi, tra l'altro, che l'animazione completa sono 15 minuti, quindi è una cosa, insomma, era molto ridotta poi alla fine come contenuto. Sì, molte azioni le ripetevi al contrario, le mettevi specchiate, insomma, quindi era tutta una serie di determinate cose. C'era poi, tra l'altro, e poi passo a Davide, c'era anche un po' il tardone, no? Quello che rimaneva un po' più, cioè che insomma era già più grandicello, però se si mischiava in mezzo ai giorni, non si sapeva bene che voleva, insomma, che ti spiego come si fa sta cosa, cioè, c'erano insomma quelli un po' più rincoglioniti, diciamo così, che però per sentirsi ancora ragazzini o per sentirsi importanti o per fare il figo con i ragazzini, ah guarda mo questo te lo spiego io come si fa, roba già, insomma, alla fine insomma dentro le sale giochi c'era un po', come diceva Carlo, essendo un ambiente sociale c'era un po' tutta la società che c'era fuori poi fondamentalmente, esatto, solo che magari più condensata in una tipologia molto più specifica, perché erano chiaramente prevalentemente ragazzi, quindi c'era comunque il fumo di sigarette, così come c'erano anche i spinelli, c'era un po' di tutto, insomma, cioè, in certe sale giochi quelle insomma diciamo così, ecco, questa dove andavo io per esempio era un bar dove sotto praticamente c'era la sala giochi, era un'intera sala giochi, non era due o tre cabinati, cioè una cosa grandissima, e lì sotto che te lo dico a fare, cioè, chi ci veniva a controllare, insomma, quindi cioè chi riveniva a controllare, perché io ero ragazzino, non è che mi mettevo, neanche fumavo, insomma, anche perché io ho iniziato a fumare tardissimo, ho iniziato a fumare a 20 anni, figurate, proprio nel pieno della consapevolezza. Vai Davide. No, io comunque ovviamente parallelamente a quello che dice Carlo, che ha detto Carlo, più o meno la situazione era lo stesso. Posso dire che io ero sicuramente un giocatore che nel complesso potrei dire ero medio scarso, in generale sui giochi ero abbastanza scarsino, non ero un granché, solo su alcuni giochi, due o tre mi trovavo bene, e poi alla fine spendevo i soldi su quelli lì. Xevious. Che è stato Xevious, che è stato 1943, piuttosto che Vanguard. 5-6 spara e fui, tutti spara. Sì, tutti spara. E, Pac-Man, vabbè. E lì, su quelli avevo una certa cosa. Poi e gli altri invece ci giocavo due volte, poi non combinavo mai un tubo. E allora diventavo un visualizzatore, cioè alla ricerca di quello che lo sapeva invece che andava avanti, e finalmente vedevo come andava avanti questa cosa, no? Guardavi i walkthrough, i let's play. Sì, praticamente io non ci riuscivo, non c'era niente da fare, ero proprio negato su certe cose. E allora ero un osservatore, però ero silente e con ammirazione. Guardavo. Ecco, posso aggiungere una cosa che se no me la dimentico, mi è venuta in mente, che poi in realtà la sala giochi diventava anche un po'. Come tutti i luoghi, diciamo, tardo adolescenziali, anche un luogo di pressione sociale, perché poi in realtà c'erano le sale giochi, quelle più tranquille, quelle dei posti di villeggiatura, quelle del mare, che magari non c'era tutta questa frequentazione. Tu andavi là, mettevi i tuoi gettoni, i tuoi soldi, giocavi e non ti cagava il cazzo nessuno. Invece in queste sale giochi qua, soprattutto a Roma, poi non so se anche da voi era, cioè c'era proprio la pressione nel giocare, perché poi come tu ti mettevi a giocare c'era sempre qualcuno che te veniva lì a vedere, ma non sei buono, ma che sta a fare, ma che, cioè, ma giocate voi invece di romper cazzo altri. Sempre da lì, però questa cosa ti metteva l'angoscia, cioè nel senso, ma mi lasci giocare un po', non so buono, beh voglio giocare che non so buono, ma che te frega a te, no, invece ma lascia perdere, ma ripia, ma che non butta i soldi. Oppure c'era una cosa, guarda che poi c'era magari il livello, cioè, ma che te lo finisco io, che tu non sei buono, te lo finivo, e poi ti rubava praticamente la partita, cioè, perché praticamente sì, poi dopo non se levava più praticamente, no? Cioè, nel senso, ecco, queste erano un po' tutte le pressioni sociali che c'erano all'interno delle sale giochi, che purtroppo erano quello che erano, insomma. Sì, beh, io comunque posso dire che li provavo tutti, cioè non, anche se io li ho provati tutti, praticamente anch'io. Andavo in sala giochi, ce n'erano 20, li provavo tutti, uno alla volta, tutti. Magari qualcuno mi attirava un po' di più, ci mettevo anche due volte di fila, tre volte la monetina, poi se non andava, non andava, e poi basta, non ci giocavo più. Se invece giusto mi andava un po' bene, diventava il mio gioco, li assaggiavo, insomma, una volta assaggiati, se non mi piacevano morivano lì, però me li tenevo da guardare con qualcun altro che invece era capace, così finalmente vedevo che come funzionava. A volte io non capivo come funzionava, magari ma guarda, a me manco me fregava, cioè io volevo giocare, cioè non mi frega niente, no, delle idee. Tu arrivavi e dicevi come funziona proprio, cioè cosa devo fare, non ci sono istruzioni, no? Per cui ti dovevi arrangiare, magari all'inizio non capivi che dovevi fare una certa cosa e quindi morivi subito, poi alla fine arrivavi, vedevi quello che giocavi, dicevi ah ma così si fa, ma vaffanbani, e allora poi dopo ci provavi. Mi ricordo una cosa simile con Bosconian, per esempio. Bosconian è cosa, era Bosconian, era quello dell'astronave che andava in giro con radar di fianco, che aveva quelle basi che dovevi praticamente, per farle esplodere, far scoppiare tutti i lati della base della, no, su due piedi non me lo ricordo, ma se lo vedo sì. E comunque un'altra cosa che mi è venuta in mente era che nella socialità poi della sala giochi c'era anche il gioco cooperativo, quando bisognava finire un gioco nuovo che era arrivato e si cooperava per capire come finirlo, cioè ci si passava i trucchi, le cose, oppure addirittura il gioco cooperativo per fare più punti. Un grande classico è di questo coso, che sicuramente avete fatto tutti, è la cooperazione di gioco su Hyper Olympics, le Olimpiadi, su Track and Field, che uno corre e l'altro salta, no? Per dire, perché farlo da solo era difficile, se invece ci si giocava in due, non nel senso di one player a two player, ma proprio in due per fare un giocatore, dove uno smanettava o sui tasti o sul joystick per andare alla massima velocità e l'altro invece stava sul pulsante di salto o di lancio, calcolando il momento esatto in cui lanciare il giavellotto, saltare l'ostacolo, saltare, perché poteva avere più poi perché era concentrato. Io Track and Field ci ho giocato sul, cioè, è stato il gioco che ho giocato di più in assoluto sul Commodore 64. Esatto. Mi ci sono consumato le mani praticamente. Tra l'altro, a proposito, io ci ho giocato tantissime sala giochi. Era della Epix, no? Cioè, era della Konami. Epix faceva i Summer Games, se non mi sbaglio. Summer Games, Epix faceva Summer Games. No, ma Track and Field è un'altra cosa. Comunque Giulio ci scrive. Giulio ci scrive che per un'estate sono stato il re della sala col primo Street Fighter, la Hadouken a manetta e palmo sinistro in carne viva, cioè nel senso i vesciconi. Poi è uscito Street Fighter 2 e sono decaduto, cioè nel senso non eri più buono a giocarci. E vabbè, questo io Street Fighter succedeva. Guarda, io conosco tantissimi iper appassionati di Street Fighter che ancora oggi lo finiscono col gomito sinistro, senza occhi e senza orecchie. Però devo dire che no, io ero proprio una pippa, cioè non capivo proprio. So dei giochi talmente tecnici che non. No, io quando giocavo incazzavo, mi piaceva divertirmi, cioè non è che. Poi vabbè. Io già con Street Fighter, tra virgolette, ero già vecchio. Ero già sì, nell'ambito del professionismo del videogioco, nel senso che lo guardavo con un altro occhio di quello che li programmava e che dopo li recensiva. Ma per esempio dei picchiaduro che mi ricordo io che giocavo erano precedenti, tipo Yar Kung Fu. O addirittura Kung Fu, poi proprio il primo, quello del giocatore con il kimono rosso e col kimono bianco. Proprio paleolitico inferiore. Sì, terribile. Però erano divertenti, anche perché sì. C'era comunque io in generale, ecco, una cosa che mi rilascio a quello che ha detto prima Davide, cioè io i videogiochi come Davide li provavo tutti e li guardavo diversamente. Tu, Simone, hai detto io volevo giocare. Ecco, io no, spesso non volevo giocare al videogioco, cioè non guardavo il videogioco perché ci volevo giocare, ma proprio per esaminare e studiare il videogioco, cioè questo è un gioco nuovo, cosa fa, come funziona, guardavo già il tecnicismo dell'epoca, se introduceva una grafica diversa, certo. Tipo di scrolling, no, ma a me giocassi significava anche quello, cioè io lo volevo vederlo il gioco, cioè lo volevo, cioè nel giocarlo comunque a me piaceva vedere la grafica, cioè io quando è uscito Popeye, per dirvi, sì, fantastico. Cioè Popeye per me era, cioè, la grafica, il fotorealismo, capito? E quindi mi mettevo lì a guardare i movimenti, le animazioni, cioè per me era quella la cosa bella, capito? Quindi sì, poi se ci giocavi non riuscivi a fare attenzione a queste cose, quindi facevi l'osservatore che mentre uno giocava controllavi le cose di contorno, no? Perché tu quando giochi guardi l'omino che è il tuo personaggio e non guardi quello che ci sta intorno, quando invece giocano gli altri tu ti concentri su tutte le cose intorno e scoprivi delle cose, ma guarda lì c'è una bottiglia, là c'è un qualcos'altro che non l'avevi mai visto, oppure osservavi proprio a livello tecnico come è costruito, ecco, uno sprite fatto in questo modo con tanti colori, ma che bello, eccetera eccetera eccetera, e le musiche, ti concentravi anche sulle musiche, che invece nella sala giochi era un po' un sottofondo incasinato, invece se non giochi tu fai attenzione alla musica, nonostante ci siano migliaia di altri suoni che stanno circolando. È vero, è vero. sì. Beh, per esempio, qui vedo, cioè nel senso, cioè noi ci siamo segnati come appunto nella provincia o nei posti dove non c'erano le sale giochi, che già un po' abbiamo accennato, no? Alla fine, sì. Dov'è che si potevano trovare i videogiochi? Nei bar, nelle bische, fino a qua ci eravamo arrivati, negli oratori, perché in alcuni oratori c'erano, nei tabaccai. Tutti gli oratori, cioè, nei, a un certo punto tu. Esatto, sì, sì. Nei tabaccai a me non mi è mai capitato, devo dire la verità, poi dopo queste rientriamo un po' in un'altra, nelle latterie neanche, però in effetti, allora, una cosa che è andata di modissima negli anni 80 e anche 90, secondo me, erano le sale bowling, che era esplosa questa moda e si andava tutti quanti, magari c'erano i weekend dove andavi al bowling, facevi la partita bowling, ma poi alla fine te buttavi sui cabinati, perché esatto, perché quelli riempivano di cabinati in ogni angolo, in ogni buco dove ce ne stava uno, esatto. Però ecco, questa cosa delle sale bowling in effetti mi era sfuggita, e perché noi volevamo fare anche una puntata sui locali del divertimento degli anni 70-80, sì. E quindi ci ritorneremo anche su questa cosa, quindi magari non ci perdiamo, però ecco, era bello ricordarlo, perché le sale bowling sono state un momento importante, insomma, della nostra socialità in quel periodo, che oggi ci stanno ancora alcune, sì. Io, ma sono fuori moda adesso, ma proprio all'epoca c'è stato un momento, si andava sempre al bowling. Facevi la partita al bowling, ma poi, come hai detto, ne dico un'altra sempre che ci teniamo per la prossima puntata, però vi dico bowling e pelota. Pelota sì, ma quello meno, però mi sa. Pelota non c'ho presente, non c'ho. È a Milano e c'è stato un periodo molto a Milano di quel gioco lì. È stato abbastanza diffuso, ma credo che fosse una cosa limitata alla cittadina. Tu dici che è una roba solo milanese, non lo sì, sai. Vedi, come è successo in quegli anni, sì, perché per esempio Simone, vedi, non lo conosco. Non lo ricorda. Va bene. Io pensavo fosse una cosa. No, ma poi, le sale, e qui vabbè, la chiudiamo veramente. Le sale bowling di allora erano un universo che ti inglobava, perché tu entravi la mattina volendo e uscivi la sera, perché c'era la sala giochi, c'era il bowling, poi si mangiava. Io e si mangiava. Esatto. Quindi alla fine c'era hamburger, c'erano le cose, ma quindi quello era un altro micro universo nell'universo, ovviamente messo ho detto, a Roma c'erano veramente alcune, c'erano due sicuramente grandi, molto grandi. Poi da noi nelle nostre c'era una famosissima a Pomezia, che era proprio gigantesca, c'era una marea di piste, ma pure lì era, cioè, videogiochi a go-go, insomma, quindi a Milano era il Forum di Assago, ti ricordi? Io ce l'avevo a Cinisello, nella via dove abitavo in Viale Romagna, e bowling era in Viale Romagna 39 o qualcosa del genere. Nella stessa via dove abitavo c'era un bowling che era sotterraneo, quindi da fuori occupava tipo un metro quadro e c'era una porticina. Poi si scendevano queste scale lunghissime, si arrivava giù e c'era tipo una roba 1000 metri quadri con 10.000 piste, che inizialmente era un bowling, poi è diventata praticamente una sala giochi. E il bowling, c'era anche il bowling, però penso che a un certo punto, in quegli anni precisi di cui stiamo parlando, era diventata fondamentalmente la sala giochi. Si chiamava il bowling del nord. Per darvi un'idea, magari qualcuno se lo riporta. Che però tu veramente hai trovato, però questo l'ho sentito solo da te, Davide, che hai trovato il videogioco in macelleria o in latteria, cosa che in latteria in latteria a me non mi è mai capitato. In latteria era sotto casa mia, questo era proprio sotto casa mia, nei portici di era una latteria, che proprio con l'insegna latteria, che era praticamente un bar che vendeva. Beh, sì, quello ne abbiamo parlato, no? Nelle botteghe scomparse, esatto. No? Sì. E questo aveva una specie di bottega che lo usavano come magazzino, che è cominciato a diventare una mini sala giochi. Perché se vedete che magari era arrivata la proposta dei noleggiatori, gli conveniva. Poi in quel periodo veramente secondo me poi se c'avevi un cabinato era un valore aggiunto importante. Esatto. Quindi poi diventati due, poi tre, poi ha sbaraccato tutto, non c'era più scaffale, è diventata un angolo sala giochi. E più tutti noi ragazzini che eravamo lì, e sai, si gioca, intanto mi dai una spuma, mi dai una Coca-Cola, prendi la brioche, la brilla, la focaccina, eccetera, e magnavi anche, tanto che la focaccina dell'S lunga, ricordiamo. No, lì era la focaccina di non so chi. Ma sì, no, vabbè, era una battuta, perché c'è pure la canzone della focaccina dell'S lunga. E poi niente, quindi si bivaccava lì. Allora, la batteria non mi è mai capitato. No, invece ho raccontato nel documento, ho scritto che quando sono andato a Malaga in Spagna, un giorno siamo andati in una macelleria a prendere la carne e c'aveva lì dentro un aveva un banco. Ah, no, aveva il porca miseria, quello prima di, Galaxian, no, quello, sì, quel Galaxian. Galaxian, sì. Quello prima di Galaxian. Phoenix, Phoenix. No, no, Galaxian, no, quello Galaxian, con le tre astronavine che si... No, però, non era Galaxian, non mi ricordo come si chiamano. Quello, quello con le tre che si agganciavano una, esatto, dentro l'altra. Sì, partivi con la, quella più, sì, grande. C'ho un vuoto di memoria. Vabbè, quello lì. Quello lì. Stage 1, stage 2, stage 3. Ok, sì, sì, sì, sì. Ecco, c'era quello lì che non l'avevo mai visto ed era in una macelleria lì vicino dove noi avevamo la casa, e quindi io scendevo e andavo a giocare a quel gioco in macelleria, ragazzi, macelleria. Ed arrivava il noleggiatore e ti dice: te ne metto qua uno, non ti costa niente. Igienico, poi immagino, insomma, col profumo della carne macerata, insomma. Poi dove c'era un buco si infilavano. Io mi ricordo che a un certo punto, nel massimo del la diffusione dei videogiochi al mare, a Pietra Ligure, questo, addirittura avevano messo i cabinati nel lungomare mentre camminavi. Ah, io cioè facevo, quelli con, facevano bene, quelli, immagino che, insomma, la salsedine. Sì, ma era assurdo, cioè tu praticamente avevi i videogiochi dentro nei bar dei, sì, sì, degli stabilimenti, no? Poi a un certo punto i bar degli stabilimenti erano pieni e mettevano i videogiochi in mezzo alla camminata del lungomare, cioè tu camminavi nel marciapiede grande, che era quello con le palme insieme, e ogni tot c'era un cabinato. Mi ricordo lì c'era Time Pilot. Quante partite a Time Pilot? Ve lo ricordate? Time Pilot ha lo stesso gameplay, tra virgolette, di Bosconia, perché era lo stesso hardware della più Namco, o meno, sì, sì, sì. Solo che hanno cambiato un po' gli sprite, ha cambiato un po' la roba. Il gioco comunque aveva lo stesso stile, proveniva dallo stesso, cioè divideva sicuramente anche parte del corpo. Sì, perché la astronave stava fissa nel mezzo e girava tutto il resto, esatto, praticamente, quando tu ti muovevi. Era molto bella. E invece c'è stato un momento, anche se qui forse strasbordiamo un po' leggermente negli anni 90, quando poi le grandi sale giochi sono state acquisite dai grandi franchising, no? Cioè, perché da noi a Roma, per esempio, le sale giochi medie sono, a un certo punto, sono completamente sparite. E aprivano ste mega sale giochi, l'Extra Ball a Lucio Sestio. Oppure ce ne stava un altro a Pio XI, insomma, nei vari quartieri aprivano, alla fine a Roma c'erano solo tre o quattro sale giochi, ma gigantesche, proprio, sì, quelle futuristiche, dove tu andavi lì solo per quello, praticamente, cioè, sì, senso, sì, sì, sì, anche a Milano. E questa, e questa è stata una cosa che ha cambiato molto il rapporto, insomma, con, perché tu praticamente erano quei pomeriggi che tu dedicavi magari alla sala bowling, alla fine la dedicavi alla sala giochi, anche se era diverso, perché nella sala giochi comunque magari non c'era come c'era nella sala bowling, no, pure la possibilità di mangiare, però sicuramente c'era una pizzeria, un kebabaro o qualcosa vicino, insomma, dove potevi mangiare. Quindi tu praticamente il pomeriggio, magari una giornata, diciamo, di sabato, la dedicavi praticamente alle sale, sì, giochi, sì, sì, e lì, vabbè, insomma, sì, ho una giornata della settimana, perché se tu, guarda, secondo me, se qualcuno a Milano voleva rintracciare uno che bigiava, bastava che andava o alla New Rocky o alla Stra Games e lo trovava lì, sicuro, esatto, nel 99% dei casi. Ecco, in quelle sale giochi c'era talmente tanto spazio, tante cose, che certi giochi, quelli un po' belli, famosi, magari non mi viene un nome, facciamo finta Pac-Man, magari ce n'erano 3 o 4, 5, sì, uno di fianco, sì, all'altro. Sì, sì, era male. Quello, ovviamente, essendo gigantesche, la cosa bella è che tu comunque lo trovavi il cabinato, cioè non era come nella sala giochi di quando eri ragazzino, che c'era il nuovo cabinato e non ci potevi giocare perché c'era la fila, esatto. Invece lì comunque ce ne stavano 4-5 tutti in fila, e quindi bene o male lo spazio per giocare. A parte le novità, perché io mi ricordo proprio alla New Rocky di Porta Venezia, quella che hai citato te nel documento, Davide, io andavo spesso lì, ero comodo andare lì alla, che si chiamava New York e poi è diventata New Rocky, perché penso abbia cambiato o l'avevano chiusa e ha dovuto cambiare nome. Comunque, sì, ha avuto due nomi, si chiamava New York prima e poi New Rocky. Quando arrivava la novità, io mi ricordo lì di aver visto Dragon's Lair quando è arrivato. Dragon's Lair costava un botto, quindi ce n'era, a parte che costava, e poi ce n'era uno, e quindi c'era la coda della gente che voleva giocare, che voleva provarlo, cioè dovevi prenotarti quasi. Sì, infatti Dragon's Lair l'ho visto, la gente che si menava, cioè cose, sì, così. Dragon's Lair infatti io l'ho visto nella vecchia sala giochi, cioè nella sala giochi quella ancora tradizionale, dove avevano messo sto cabinato, dove c'era proprio, cioè, l'ira di Dio. E mi ricordo che io non ci ho mai giocato per un bel po' di tempo, cioè, nel senso, non era proprio possibile, cioè, non era, a meno che io non andavi lì la mattina alle 9. Ah no, perché c'era la coda, sì, la coda di gente che giocava, era proprio, cioè, impossibile giocarci, quindi te lo guardavi e rimanevi un po' affascinato. Poi quella volta in cui capitava a te che finalmente sono riuscito, dai, e mettevi 500 lire, quanto era? Giocavi 30 secondi perché non avevi capito un cazzo di come funzionava, cioè, nel senso, il concetto di quick time event che è stato poi inventato, no, da Dragon Slayer, in realtà tu ti immaginavi che c'era il personaggio e tu lo muovevi, invece non muovi un cazzo, cioè, no. Quindi vabbè, insomma, c'erano questi ricordi veramente, veramente belli. Però poi appunto le sale giochi secondo me si sono trasformate all'interno, poi diventava anche il posto dove andavi con la tua ragazza, perché c'erano sia i cabinati per i ragazzi sia i cabinati per le ragazze, e c'erano anche le pesche, vi ricordate, no? Quelle per, sì, prendere, sì, i pupazzetti, sì, e cose, sì, insomma, sì, che sì. Poi dopo hanno cominciato a mettere dentro anche quelli dei pupazzetti, quelle robe lì, con la pinza, con la pinza, quello là esatto. Oppure quella che mettevi il gettone e c'era quella specie di come si chiama, di tipo spazzaneve che spostava tutti i gettoni che poi li faceva cadere, certo, sì. Sì. E questi erano anche tipici delle sale giochi dei Luna Park, esatto, dei mari, al mare, sì, al mare, sì, ma anche dei Luna Park, quando arrivando, sì, al Luna, sì, Park arrivava con il camion che si apriva, che era sala giochi, e dentro c'erano tanti di quei giochi lì, insomma, anche quelli con le monete che cadevano. Sì. C'è Red Max che dice che spesso i cabinati di Dragon Slayer avevano un secondo monitor, sì, schermo messo in alto, prima, ma l'abbiamo raccontato prima, Carlo, sì, almeno si poteva vedere, sì, e grazie a quello che la gente alla fine non si accoltellava, perché sennò diventava, esatto, dura, esatto. Comunque la mia sala giochi ufficiale effettivamente è stata Astra Games, perché io in quel periodo avevo un amico che aveva un negozio di erboristeria in via Torino, e, mamma mia, che brutta gente che conosce, risiedevamo lì e bastava fare due passi ed eravamo all'Astra Games, quindi noi vivevamo su un'Astra Games, che era una bella sala giochi, bella anche estetica di design, era bellissima, sì, era molto futuristica, circolare in questi ambienti a più livelli, me la ricordo. Non so cosa fosse prima, forse era un cinema, forse. Non lo so, però era veramente bella. Io invece ci sono stato poche volte, perché invece andavo alla New York, New Rocky, che, sì, che era un po' fuori mano, era più vicino, sì, a questa, insomma. Esatto. Poi diciamo che in 20 anni, insomma, diciamo che le sale giochi, vabbè, l'abbiamo raccontato, perché le sale giochi iniziano quasi artigianalmente e finiscono per diventare poi delle vere aziende, no? Perché io mi ricordo appunto a queste mega sale giochi dove si andava, che poi aggiungevano sempre cose, tipo poi ci hanno messo la sala laser, vi ricordate quello che se il laser, sì, sì, esatto, sì, no? che era divertentissimo. E addirittura, ma qui stiamo proprio un po' sconfinando, il primo Doom con la maschera virtuale, no? Cioè con la, sì, con cosa, quando c'era la moda della realtà virtuale, sì, no? Perché infatti ogni tanto ciclicamente il Virtuality 1000, esatto, il tagliaerbe quando, sì, sì, sì, film, quando c'era, no, comunque primi anni 90, 92, 93, quegli anni lì, so, esatto, okay. E quindi le sale giochi da quel punto di vista sono cambiate tanto. Io mi ricordo pure il fatto che tu cambiavi i soldi con la macchinetta, cioè tu mettevi i soldi e la macchinetta ti contava esattamente i soldi, quindi il tizio che stava lì poi alla fine doveva fare poco e niente, se non andare scomparendo, insomma. E c'erano praticamente gli addetti solo in determinati punti, tipo appunto il gioco del laser, dove ti doveva dare i fucili, ti doveva dare le cose, e quindi dovevano conteggiare anche il tempo in cui stavi dentro, e il tizio magari del caschetto virtuale per giocare a Doom, che comunque qualcuno te lo doveva mettere, se no tutto il resto alla fine non c'era manco più bisogno, cioè funzionavano da sole sti posti, perché erano incredibili. E poi piano piano c'è stato l'inizio di un declino che non è stato solo sociale e culturale, ma è stato anche diciamo che ha compromesso l'esistenza delle sale giochi, la trasformazione delle sale giochi stesse, cioè sì. Quindi dove sono incominciate ad inserire dentro più macchinette che videogiochi, perché in Italia quel tipo di gioco iniziava a diventare legale, no? Esatto, macchinette, esatto. Intese come slot machine. Sì. C'è stata la liberalizzazione del gioco d'azzardo. Questo è successo nel 1995-96, quegli anni lì, praticamente a metà degli anni 90, ed è stato un cambiamento epocale, perché lì proprio io me lo ricordo bene, perché io in quel periodo lì lavoravo proprio in quell'ambiente, perché io nel 95 sono andato a lavorare in una società che si chiamava CD Express a Settimo Milanese, appunto, che produceva giochi arcade. E come produceva giochi arcade? Era la società che ha inventato il cubo CD32, cioè il famoso CD32 della Commodore con la presa jamma, in pratica, che era un'idea che avevano avuto i due fondatori, Enrico Di Zenobio e Carlo Cattoni, perché dal fallimento Commodore si erano portati a casa praticamente i magazzini di invenduti dei CD32. E quindi si erano inventati un modo di riutilizzarli, no? Questo hardware che avevano avuto a bassissimo costo, e hanno creato il cubo CD32, che era praticamente un CD32 della Commodore con la presa jamma, e noi progettavamo i videogiochi programmandoli praticamente su Amiga, però per gli arcade. E abbiamo iniziato facendo proprio videogiochi arcade. All'inizio erano dei videogiochi ispirati, diciamo, se non dire, per non dire clonati, ad altri successi. Abbiamo fatto un clone di Puzzle Bubble che si chiamava Candy Puzzle, un clone del Quix, quello con le donnine dietro. Riempiendo le aree. Però proprio in quegli anni lì c'è stata la liberalizzazione del mercato del gioco d'azzardo, e nel giro proprio di pochissimi mesi praticamente siamo passati dal fare videogiochi arcade al fare videogiochi a vincita, quindi esatto. Slot machine, giochi di carte. Lì lavoravo in CKE e vedevo questi noleggiatori che buttavano via proprio tutti i cabinati e mettevano queste slot machine, video poker. C'è stato proprio un cambiamento che ha poi portato a un cambiamento anche della tipologia del giocatore, che non c'era più il ragazzino che andava a giocare al videogioco, ma c'era l'adulto che buttava via lo stipendio. Sì, infatti, perché poi dal luogo di divertimento e di socialità, che ricordiamoci, socialità è un aspetto assolutamente fondamentale, a posti dove era pieno dei ludopatici, fondamentalmente, dove l'interazione non esisteva, perché erano tutti sbarrati, con gli occhi sbarrati davanti al monitor a tirare le vette, a fare i numeretti, le cose, che le palline colorate, le luci che ti friggono il cervello proprio in un modo che poi insomma è un po' quello che succede anche con i giochini delle palline, quelle sui cellulari, cioè tutto sommato anche l'iperstimolazione, sì. No? Dal punto di vista sensoriale, e questo è stato un po' il peccato, perché chiaramente alcune sale giochi hanno provato a resistere, ma chiaramente le grosse sale giochi sono tutte morte. I tempi oramai erano cambiati, il dato era tratto da quel punto di vista, E aggiungo che invece nelle località di villeggiatura tutte le sale giochi che ancora esistono si sono trasformate, non saprei come definirle, le chiamano ancora sale giochi, ma è pieno di quelle macchinette che tu devi vincere, cioè sono giochi di abilità, chiamiamoli così, dove alla fine ti rilasciano delle specie di ticket, dei bigliettini colorati, che poi prendi il premio, certo. Che poi alla fine quando li accumuli vinci il premio, e sono tutti giochi di abilità meccanici fondamentalmente, non sono neanche quasi elettronici. Basket, vabbè, quelli ancora tanto. Sì, è vero. Quelli, però, quelli pure hanno fatto parte un po' della transizione. Perché io mi ricordo, ma adesso sono così. Se vai al mare ci sono tutti questi che ti danno. Sì, quelli hanno iniziato ad apparire anche nelle grandi sale giochi. Fino a che poi, ovviamente, ai bowling adesso ci sono tutte quelle che sono piene di LED, tutti colorati. Le sale giochi che sono rimaste o che sono sopravvissute o quelle che sono rinate funzionano tutte in questo modo adesso. Qualsiasi sala giochi che trovi, entri dentro e c'è la vincita del ticket per poter ritirare il giochino con diversi punti. Quindi ti invogliano a continuare a giocare per prendere i punti per poi ritirare quella cosa che vedi nella vetrinetta. Il pupazzetto di gomma maledetto da buttare via subito. Poi mettono, sai, le cose fighissime tipo il cellulare di utile alla macchina fotografica, certo, ci vogliono 8 miliardi di punti. Certo. No, ci sono i cellulari della Apple, ci sono quelli della Samsung con la N, esatto. Però sono uguali. Poi quelle macchinette bastardissime, non so se le avete viste, quelle con i cosi tipo i cellulari appesi con un filo di nylon e che tu guidi una forbice che con un colpo solo deve tagliarla, che tu dici è facilissimo, metti, poi non ci riesci mai e non ci riesci a tagliare qualcosa. Li hanno calcolati per non uscirci mai, anche perché arriva la forbice e anche se centri il filo di nylon da un micron, quella forbice là ha la potenza di un taglio di niente, taglia proprio, esatto, come la pinza, quella lì che va giù per prendere, no? Che poi non prende, c'ha le dita mosce sempre, le dita mosce, plap. Beh, diciamo che comunque tornando un po' alle sale giochi, con la chiusura delle sale giochi chiaramente si chiude anche un'epoca e io ho due racconti particolari, vorrei sapere se anche voi ci avete magari un aneddoto, un qualcosa che comunque vi è rimasto impresso negli anni magari che avete passato nelle sale giochi. Uno era il fatto, ecco, quando c'erano queste grandi agglomerazioni, quando hanno iniziato a nascere le sale giochi quelle grosse, mi ricordo che c'erano anche le ragazze, quindi diventava anche un posto dove andare a tacchinare poi fondamentalmente. E un'altra volta proprio uno degli extra ball, proprio quello mi pare di verso il Vaticano, e ci incontravamo dentro Renato Zero, che uno dice vabbè. Allora l'amico mio giustamente c'era la ragazza che era super fan di Renato Zero, gli dice ciao Renato, quello, ciao beh, che me fai l'autografo, mi ragazza è innamorata di te, proprio mi piace tantissimo. E quello c'era un periodo, lui stava andando in giro, c'erano dei manifesti di Renato Zero che doveva fare un concerto, vedi quel manifesto, dice ma sai, io sono appena sceso da quel manifesto e tu che fai, mi ci vuoi far risalire sopra? No, non funziona così. Vabbè, ma io adesso chiedo solo l'autografo, non è che te sto chiedendo di mettere a cantare una canzone, no? Insomma, poi è stato lì un quarto d'ora, 20 minuti a chiacchierare con noi, a scherzare, Robert, ci ha saluto a tutti col bacetto, però l'autografo non gliel'ha fatto, è una cosa incredibile. Poi quello fa, dice, aveva voglia. No, proprio è perché lì poi diventa pure una questione dei principi, no? Perché fa, dice, ma io poi, scusa, ma io voglio passare la serata tranquillo, non è che la gente può venire a chiedere un autografo. Poi tu considera, lui era vestito cappello bianco, giacca bianca, pantaloni bianchi, scarpe bianche, no? Allora, non lo notava nessuno. Allora l'amico mio gli fa, dice, scusa, ma sei vestito tutto di bianco, ma che fai? Uno non te nota. Enrique, amore, ma la classe mica è acqua. No, vabbè, ovviamente non incontri del genere. No, però vabbè, magari comunque qualcosa di che mi è rimasto impresso, magari un'amicizia che è nata, una litigata o qualcosa, che cazzo. Beh, io sì, amicizia sicuro, adesso non le ricordo, ma sicuramente anche al mare non legavi più di tanto, cioè sì, c'era il tuo amico che veniva, che era nel tuo stesso albergo, che finita la vacanza non ci si vedeva mai più, era amico del momento, mentre invece in città, quando andavamo con la mia compagnia, si andava, si giocava, si conosceva forse qualcuno, però non mi ricordo di niente di particolare. Che andavamo in gruppo, ecco. Carlo? Io ci vivevo nelle sale giochi, quindi dovrei raccontare la mia vita da ragazzo. Vabbè, un aneddoto in particolare che ti piace raccontare, magari ti ha sempre divertito. No, vabbè, dai, può essere pure può essere che mi viene in mente, ma c'è veramente. Ci pensiamo un'altra volta. Vabbè. Sì, io comunque aggiungo tempo. Una cosa che ho scritto nel documento. Mi ricordo disastri tipo, ecco, vi ricordate i giochi quelli che poi c'erano nelle sale giochi? Non c'era solo i videogiochi, ma c'erano anche i giochi tipo l'air hockey. Quello del piattello. Come no? Quelli ci stanno ancora. Quelli ci stanno ancora. Esatto. Sì. L'ho sempre adorato quel gioco. Se penso ad essere ai giochi, mi ricordo il giorno che ho disintegrato gli occhiali nuovi del mio amico che aveva appena comprato con dei occhi cazzarola, 300.000 lire di lente di occhiali. No, disintegrata con un disco, non me lo ricordo. Che poi se oggi secondo me l'hanno molto perfezionato, però quando eravamo ragazzetti secondo me era abbastanza pericoloso come gioco. Io comunque una volta mi sono fatto male alla mano, sicuro. Ah, la mano ti spaccavi le mani. Oggi la presa del piattello è molto più protetta da un certo punto di vista. Sì, vai all'interno. Invece allora era proprio una cosa. E poi certe schicchere, cioè veramente. E mi domandavo sempre, ma come fanno a non schizzare via la cosa, il disco? E schizzava via. Poi è andato in faccia, Cheng. Meno male che c'aveva gli occhiali, perché sennò forse sarebbe stato il problema minore, insomma, quello dell'occhiale. Succedevano queste cose. Volevo aggiungere una cosa che ho scritto nel documento, una cavolata, ma 2 secondi. Quando parliamo di cambiamento negli ultimi 20 anni, noi parliamo ovviamente di quello che è successo in Italia, eccetera. Però io sono stato in Giappone un paio d'anni fa, contrariamente lì ci sono un sacco di sale giochi. Ma è un altro universo. Giappone è un altro mondo. Pieni di giochi e come quelle degli anni 80, ma ancora più belle, più giganti, più belle. Sono addirittura le sale giochi tematiche a secondo del marchio, c'è cioè quella della Sega, quella della Taito, quindi insomma. Lì è vero pure che in Giappone c'hanno i pisciatoi col videogioco, con l'elettronica dentro, col videogioco per vedere se c'è il getto più potente o meno potente, insomma, quindi, rimaniamo nel mondo occidentale, Occidente, ha fatto bene perché chiaramente lì è veramente ancora una realtà. Da noi sta cosa è sparita, ma proprio perché è cambiato proprio la nostra società e di conseguenza e secondo me questa cosa delle macchinette, come abbiamo detto, gli ha dato una bella mazzata, insomma, quel tipo di anche se quella delle macchinette è più una cosa successa in Italia, ecco, c'è da dire questo, che ha fatto questo cambiamento, perché io andavo tanto anche in Inghilterra a studiare e in Inghilterra lo gioco d'azzardo era già liberalizzato da molto prima rispetto all'Italia. Infatti trovo le slot machine in Inghilterra quando avevo 15 anni 16 anni, però anche lì e anche in America la stessa cosa, però anche in America e in Inghilterra le sale giochi sono morte, quindi non è proprio da colpevolizzare completamente il fatto. Certo. Okay. In Italia c'è stata la liberalizzazione, ma in realtà il vero quid che ha distrutto il gioco arcade è stata l'evoluzione del gioco domestico, certo, e della connettività domestica, perché nel momento in cui noi in casa abbiamo iniziato a poter avere giochi che praticamente non avevano più nessuna differenza, anzi erano gli arcade della sala giochi, era quello che avevamo a casa alla fine, mentre prima non era così. Però già dalla prima PlayStation, poi non parliamo dalla PlayStation 2 in poi, ormai a casa avevi un hardware che era paritetico a quello che trovavi in sala giochi, e quindi non c'era più neanche il dire il videogioco nasceva prima in sala giochi perché la tecnologia, la novità era lì e poi arrivava a casa. No, il contrario, da quel momento il videogioco nasceva per il mercato domestico, certo, a casa, e quindi iniziavi a giocare a casa, non andavi più in sala giochi a giocare. E poi quando ha introdotto la mazzata finale è stata la internet con la connettività, perché ha iniziato il gioco in rete, la possibilità di giocare con gli altri senza muoverti di casa, eccetera. Quindi, sì, che anche quello ci ha avuto i suoi step evolutivi, no? Nel senso esatto, ma la socialità, diciamo, ma infatti è stato graduale, questo discorso. No, perché io infatti ricordo, forse l'ho già raccontato, però ricordo che a Ottaviano a Roma c'era questo negozio che faceva parte della catena Per Gioco, infatti si chiamava Per Gioco, che vendeva i videogiochi, però poi avevano affittato un locale accanto dove ci avevano messo praticamente tutti i computer in LAN, dove tu pagavi, che ne so, 5.000 lire l'ora o 3.000 lire l'ora e giocavi con i tuoi amici in LAN in Quake, Doom, insomma tutti quei giochi, insomma, che alla fine si poteva giocare e che potevi fare tranquillamente a casa, solo che ti dovevi portare al computer, dovevi trovare il posto dove facevi i LAN party e roba del genere, e quello era ancora, diciamo, attaccato a un certo tipo di socialità, che però poi dopo internet da quel punto di vista è abbastanza sconquassato, perché poi dopo la gente ha cominciato a giocare a World of Warcraft e lì il mondo è cambiato veramente. Cambiato. Vabbè, avete altro da dire? No. Qualcosa da aggiungere magari che ci tenete, che magari no? Va bene, ok. No, vabbè, io avevo una nota, ma Scusa Davide, vai. No, vabbè, perché io andavo a chiudere se non. Però se c'hai una nota, no, io te la faccio. No, avevo una nota che parlava dei noleggiatori di cui abbiamo già parlato. Ah, okay. Però volevo solo ricordare che tutti voi sicuramente ricorderete quanti furgoni circolavano nelle città con sopra i cabinati attaccati, sì, con sì, le ciglia. Ah, beh, sì, io ne vedevo un sacco, ce ne vedevano ogni dove c'era sempre un furgone che trasportava. Io infatti penso che chi noleggiava e faceva manutenzione in quel periodo là ha fatto veramente i soldi, e io ne sono testimone, perché ho detto, conosco una famiglia che ha basato su quello una, cioè ci sono diventati ricchi questi, insomma, quindi intero. Sì assolutamente, sì, va sì, bene sì. Ragazzi, allora io spero che questa puntata vi sia piaciuta, mi fa piacere che ci sono stati molti ascolti, anche se la chat a un certo punto si è un po' silenziata con i problemi che abbiamo avuto di streaming prima, però insomma gli ascolti sono rimasti costanti, mi fa piacere, insomma, quindi vuol dire che era una puntata che aspettavate in qualche maniera, che se avete perso qualcosa all'inizio ve la recupererete in podcast, domani uscirà sicuramente. Detto questo, io vi ricordo che domani mattina alle 7, dalle 7 alle 8 torna Leo Vargion con una recensione nel suo Il Mattino Loro in podcast. Sabato ci siamo io e Michela con il crossover Disordinati Informati, Buongiorno un cazzo, dalle 8 e mezza alle 9 e mezza. Questa settimana non c'è Runtime by Night perché facciamo una settimana sì e una settimana no, ma la prossima settimana ci sarà Runtime by Night, sarà una puntata interessante, ne riceverete comunicazione, perché mi farebbe piacere che chi ascolta anche come podcast roba genere ci mandassero i loro audio per raccontare le loro storie sul tema che poi vi specificheremo. E invece Quando Eravamo Futuro tornerà la prossima settimana per parlare del tema di cui avremmo dovuto parlare questa settimana, ma non ho fatto proprio in tempo a coordinarmi anche con le persone che deve intervenire. Quindi parleremo, insomma, delle disabilità, delle sensibilità che c'era negli anni 70-80 rispetto a determinati problemi, come ci si comportava, quali sono state le evoluzioni in merito a questo tipo di tema, perché insomma, questa è una trasmissione dove si scherza e si gioca, ma è anche giusto, insomma, parlare di cose interessanti, suppongo, no? Quindi ringrazio e saluto caro Santa Agostino. Grazie a tutti e a tutti gli spamma, ascoltatori. Spamma, fai pubblicità. Ci sentiamo presto, dai, sui canali, e mi raccomando, andate su Archeologia Informatica. Bravo, su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi, vedete i video, mettete like e condividete, perché presto, forse questa settimana che entra, non questa ma la prossima, forse facciamo uscire anche un altro video, insomma, esatto. Ne abbiamo due in lavorazione. Detto questo, ringrazio e saluto anche Davide Gatti, Survival Hacking. Bene, grazie di tutto, approfitto per spammare anch'io, per comunicarvi che domenica alle 21.30 ci sarà la mia prima live ufficiale sul canale YouTube di Survival Hacking, dove potrete interagire con la chat e vedere me che armeggio in tempo reale su qualcosa che vedrete, così. Perfetto. Spammo. Perfetto. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo e volete sostenere il nostro progetto, basta andare su www.rantameradio.it, sulla sezione Anche Io, dove potete trovare l'opportunità, insomma, di darci una mano o una tantum su PayPal o in maniera ricorrente su Patreon. Ricordate che, insomma, non è un obbligo, non è un dovere, ma comunque il vostro aiuto è per noi assolutamente prezioso, perché ci permette di tenere su tutta quanta la baracca. Detto questo, ragazzi, buonanotte a tutti e grazie a tutti coloro che ci stanno anche salutando in chat. Ciao e buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao, ciao.